avanti Antonetto, sì, con questo cicalino che è avanti. Saluti a tutti gli amici della prima divisione, qui 13 Lima Radio 999 Stoccarda. Che altro mi segnala questo? Buongiorno. Sì, questo è forte il segnale, ma non ho capito cosa diceva. Avanti l'amico, con la buonasera, sassa di un ascolto. Non lo sento più. Attento l'amico, chi è avanti? Non lo sento più, Franco, non lo so, vabbè, dai, non fa niente. Forse la preparazione non è molto buona anche al momento. Avanti Franco, Sosso. Cazzo. E c'ho l'antenna in terra, meno male. Qui, caspita, sei arrivato quasi 9, sembrava proprio qui a Sassari. C'era quel bip che hai sentito tu poco fa, mio Giulio. Ah, il tuo era, io pensavo, no, perché era doppio, c'era un doppio suono, pensavo che fosse Antonello, perché era simile a quello che ha lui di solito. No, quel tipo che è entrato, questo straniero, aveva il bip, quindi forse hai sentito quello, no? Probabilmente sarà quello, non so cosa dire. Io ho sentito questo bip bitonale, per cui infatti è per quello che ho chiamato Antonello, perché ho avuto la sensazione che fosse lui, ma evidentemente mi sono sbagliato. Sì, ma è così. Vediamo un po', c'è qualcuno che vuole entrare sulla frequenza per parlare con la città di Sassari? Avanti l'amico che si è fatto avanti poc'anzi, vediamo se riusciamo ad ascoltarti. Giulio, quello è entrato, un segnale, poi tutto un corpo è sparito, era un corpo di propagazione. Appunto, è sparito, avevo un bel segnale, qui mi era arrivato intorno al 9, però non ho capito quello che stava dicendo, era un po' impastato come modulazione, non ho capito proprio niente. Oh Giulio, ti stavo dicendo, e vai giù l'antenna in terra. Franco, e vai giù dove fate di potenza, ci puoi immaginare, con un vintage di 50 anni fa. Però la preparazione quando c'è da fare, si sa, è così, non c'è che dire. Quando c'è l'antenna, anche con pochissimi watt, quando la posizione è buona, va bene, perché va bene, lo so. Bene, bene, comunque abbiamo collegato anche la Svizzera. Avanti Franco Sassari. Sì, c'è stata qualche bolla di propagazione, ancora ormai non è stabile, è arrivato fortissimo anche qua, quindi sicuramente avevo un segnalone a arrivare qua a 9 con l'antenna mia attaccata, anche io non sono messo bene mio Franco di Sorso, la mia diciamo che non è in terra, ma quasi, è attaccata al palazzo e la punta arriva sotto il cornicione, dai, tutto lì, e tu come mai non l'hai messa in alto? No, perché sai cos'è, l'ho buttata giù a terra, ero da lunedì che ci sto lavorando su quell'antenna, perché era diventata sorda del tutto, se l'ha rotto un carretto che va, Giulio già conosce quello, è vero, sempre l'aggiustandola, perché non ci sono riuscito. Adesso che l'ho messo a posto, ho messo a posto il stazionario e tutto, però a due metri da terra, e non devo sollevare tutto il fallo a sinistra, devo sollevare, come era prima, solo che da solo non ce la faccio, perché se tiro il fallo non posso fingere il bollone per agganciarlo, e allora ho bisogno di un'altra persona, che sto aspettando a domani, che è sabato, che c'è il mio cognato e mi dà una mano. Cos'è, una Mantova? Sì, una Mantova Turbo. E dimmi il problema, perché io ho avuto un problema con la Mantova 1. Che filo c'era attaccato? Dalla bobina? No, la Mantova 1 non ce l'ha quello lì, quello che c'era Turbo. Cos'era il problema tuo? Il mio era quel filo che va dal PL alla massa interna. Ma ce l'ha anche la Mantova quel filo interno, quello è proprio il polo caldo, adesso non me la ricordo quella, sì, la Mantova, vabbè, Giulio, com'era quello? Anche la Mantova 1 ce l'ha? Non lo so, ma suppongo che sì, una bobina ce l'avrà anche la Mantova 1, io la Mantova 1 non ce l'ho mai avuta, per cui non la conosco proprio bene, se non solamente di in fotografia e basta, ma niente di più. Non lo so, ma suppongo che ce l'avrà avuta anche la Mantova 1. Perché com'è la tua, o Franco Sassari? Sì, sì, io anch'io ho ricostruito quel cavetto che era tutto siliconato, che parte proprio dall'attacco dell'antenna, dalla femmina, e va fino alla parte isolata in vetroregina, e esce lì da un foro e si attacca poi al mollone, proprio sopra la bobina, quella nera, diciamo che c'è l'avvolgimento, dai. Sì, è così, perché poi quel filo lì va a finire nell'impedenza che c'è, appunto, cioè quella bobina di alcune spine di cavo di filo, cioè smaltato, che non fa altro che completare la lunghezza fisica, appunto, dell'antenna. Sì, ma è così, evidentemente è tutto così. Probabilmente quello, perché non funziona l'antenna che mi stavi dicendo un po' di tempo fa, o Franco, ce l'hai, l'avevi ritirata, ma avevi detto che l'avresti voluta provare qui nella zona dove sono io, cioè da dove l'avevi presa. Ne ho un pezzo qua a Sassari, diciamo a Sassari, col piantone, col mollone e tutto, la parte bassa, è il radiale che ho ricostruito, però ancora non l'ho provata, non ho avuto modo di metterla su. Dovrei metterla su un palo, metterla lì, non so, vicino al garage di questa casa, lì agli punti, e vedere un po' come si comporta con le stazionarie, per vedere se rientra nei limiti, nelle tolleranze, se si può fare qualcosa, e da provare, diciamo che l'ho riparata, è solo da collaudare. Ok, sì, no, ma guarda, sia la 1, sia la 5, sia la tubo, o qualsiasi riparazione è fattibilissima, no? Non c'è problema, è un'antenna facile anche da riparare, e soprattutto non è molto complicata anche nel modo come è costruita, per cui va bene, no, non c'è problema, io ripeto, non avrei nessuna difficoltà, avendo una Mantova 1 nel sistemarla, non avrei nessunissima difficoltà, proprio niente di niente, perché ritengo che è fattibilissima, perché non può essere molto diversa dalla tubo. Io ho la tubo, ma anche se non la sto usando, è smontata, appoggiata in un angolo a casa, ma niente di più. Però suppongo che la Sigma non poteva fare un'antenna troppo diversa, visto e considerato che si trattava sempre di Mantova, sicché 1, 5 e turbo, sì, piccole variazioni ci possono essere, ma sicuramente è quasi identica, almeno suppongo che sia così, ci può essere qualche particolare diverso, ma niente di più. Avanti Sorso. No, io non me la ricordo la 1 veramente, come l'ha fatta. Aspettate un attimino, è entrato un amico, se vuole entrare. Avanti, Samuel. Non vuole entrare, dai. Va bene, Gabinuccio, ci sei? Prego, prego, Alfa Romeo, Sì, ma ti ascolto benissimo, ti ascolto. Mi devi far scendere lo smitter. Capo, c'hai problemi con il microfono, sai. Non so se ascolti gli amici di Sassari. Gabinuccio, non sei uscito. No, controllati col microfono, non stai uscendo. Avanti, Giulio. Ok, un attimo il cambio. Ciao Gabinuccio, stai uscendo a tratti, per un attimo ti ho sentito ma poi sei sparito in radio, comunque ti saluto. Avanti l'amico che chiede il permesso di entrare su questo canale, avanti Sassari ascolta, avanti l'amico in propagazione se ascolti. Giulio, mi allontano un attimo, mi stanno chiamando. Va bene, dai, la propagazione non è buona, è inutile, anche se mi è arrivato il segnalone, però niente di più. Avanti Franco Sassari. Io non ho sentito neanche l'amico di Senosi che ha rilanciato, come si chiama, Franco, lo salutate voi. E qui sta aumentando un po' il QRM, causa propagazione. Dai ragazzi, io vi saluto, vi faccio una passeggiata al Ghero, dai, ne approfitto. Un abbraccio a Giulio, un abbraccio anche a Franco, alle prossimine. Buona continuazione di serata, dai, avanti Giulio. Ok, ciao Fra, ti cambiato il tutto al 100%, dai, è stato un piacere riascoltarti, alle prossime, sperando di risentirci molto presto, ciao, grazie per la chiacchierata, ciao, buona passeggiata. Va bene, rimango in stand-by un attimo e aspetto che rientra Franco di Sorso. Mi saluti anche lui, eh. Ok, allora, ciao Giulio, un abbraccio. Ok, di nuovo Fra, salutoni a Resentici, ciao, grazie ancora. Giulio! Sì, Franco, dimmi. Cappa, mi devo allontanare perché è venuto gente e devo uscire un attimino. Va bene, Fra, non c'è problema, dai, ci sentiamo più tardi eventualmente, se coincide, dai. Intanto ti saluto e ti ringrazio per la chiacchieratina, dai. Alla prossima, ciao Fra, a più tardi. Ehi, ciao. Ciao anche a Franco e a Davinuccio, se mi sente. Ci sentiamo male più tardi, ciao. Ok, ciao Fra. Ti saluto io, mi ha incaricato Franco di Sassari, mi ha incaricato di salutarti, perché anche lui si è dovuto assentare. Dai, ci sentiamo, ciao ancora Fra, di nuovo, ciao. Ok, ciao, ti ringrazio. Ciao Flavio, dai, tutto bene? Sì, tutto bene, ci tira avanti, sempre facendo. Ascolta, ti posso chiamare un attimino al telefono per un'informazione? Se riesci a prendere la linea, perché qua sono un po' incasinato. Ascolta, prima di passare al telefono, come mi stai ascoltando? Sto provando la radio di Giulio. Ah, è arrivata. Aspetta, anche a me gli occhiali non devono mai mancare. Prova? No, ma non mi interessa il segnale, mi interessa la radio, se va bene, se mi senti bene di radio. Sì, abbastanza bene, come al solito. Quindi, t'ho anche riconosciuto, non l'hai notato. Allora già è la mia modulazione, dai. Non è molto amplificata, va bene comunque, ascolta, bella chiara. E il segnale è salito dall'altra volta? Sì, un pochino. Un pochino, però guarda, c'è una propagazione da paura anche lì. E quindi nel sottofondo si sente anche la propagazione. E penso anche quando parlo io si senta ugualmente. Sì, te la porti appresso, ma comunque riesci a superarla. No, io sono con 10 watt, posso aumentare. Però mi interessa se la radio è pulita, se va bene, capito? Sì, direi proprio di sì. Direi che è tranquilla, tranquillissima. Tu sei sempre con l'antenna appoggiata al muro, confermi? Sì, 2 metri di fronte, devo tirarla su già fra, ma credimi, non c'ho tempo, non c'ho voglia. Ascolta, puoi fare una prova in FM? Tutto quello che vuoi, esecutivo. Hey, I say, attenzione 10. Allora, chico, attenzione 10, copiate qualcuno? Li copiate? Allora, chi è? No, sono io, non stavo vedendo. No, ho fatto bei collegamenti poco fa, Romania in FM a bomba, poi parlavano, c'era questo, parlava bene l'italiano, ci sono stato un pochettino a parlare. Non è caffa, problema mio qua, sta aspettando qualcuno, se mi fa qualcuno. Adesso, andiamo per me. Ce ne sono anche in mano alla terra, ma questo qua stava uscendo con un Yaesu con 350 watt, arrivava a 9 più 20, una telefonata, una bomba, e infatti mi ha detto anche io gli stavo arrivando più di 9. L'altro stava uscendo con 100 watt, però era in una posizione un po' scomoda, io ero in mezzo alla città, questo era un po' in periferia, e c'era un assidio di antenna, 12 metri di palo, mi ha detto, usciva che una fucilata qua. Quello è il sirio, ma quello è italiano? Rumeno era, Gabriel si chiamava, si chiama, però ha lavorato 12 anni in Italia, infatti conosceva l'Italia, vicino a Tamisanora, a questo posto, sta guardando una cartina geografica, è proprio al confine della Romania. Ha detto, com'è il tempo? No, qua c'è freddo, sta piovendo, ha fatto, no, vienitene in Sardegna. No, già la conosco, la Sardegna dice che c'ha degli amici o parenti che hanno lavorato qua. Non lo sapevo, se no avevo attaccato il gigetto, vedi, dove si arrivo. No, ma mi ha detto che stava arrivando benissimo, anche l'altro che lo sentivo un po' basso, a momenti arrivava 9, poi 7, questo Mircia si chiamava, però mi ascoltava bene, dice, lui mi ascoltava 9, l'altro anche di più, questo, però ci ammetto, io sono molto in alto, c'ho una posizione pulita, non ne ho ostacoli, quell'altro invece era in mezzo dentro la città. Gappa, gappa. È normale, è una roba, cioè, ma boh, la posizione non è che conti tanto, tanto, tanto alla fine, con la propagazione, se devi arrivare, arrivimi. Sì, quello è vero, però se lui è in mezzo ai palazzi, magari disturbato dai palazzi, e quello lì, quello era in collina, mi ha detto, io non ho niente davanti, e per quello che arrivava molto più forte, lei c'erano a 20 km di distanza, però qua arrivava una bomba. Allora, mi fa, babbo, con un rocchio di cobore è arrivato a 9.30 in Costa Ionica, ma era favorevole, un meme. Dipende dalle giornate. Io il collegamento più lontano l'ho fatto vicino al Polo Sud, nella Patagonia, proprio la punta bassa dove c'è la Terra del Fuoco dell'America Meridionale. Quello è stato il collegamento più lungo, saranno 10.000 km, non lo so quanto è. Proprio, e sono stato più di un'ora parlando. Questo qua era, c'aveva 3 kW, era il guardiano del faro di questa postazione. Su un faro c'aveva una direttiva, di notte tardi, saranno state le 10:30, siamo stati un bel parlando, poi alla fine era tardi, gli ho detto dai ciao, io devo andare via. Sono stato un'oretta parlando, c'aveva un segnale, arrivava a bomba, eravamo in FM tutti e due, ma uscivamo con una bomba, cioè uscivamo, io l'ascoltavo una bomba. Lui è pompava forte, sì, non la pagano come te l'Italia, non la corrente. Io ho detto, al faro sicuramente la corrente già non è, poi era in direttiva questo, per cui ha centrato proprio, ha sparato proprio dove ero io, infatti chiamate e mi ha risposto, sono vicino alla Terra del Fuoco, mi ha detto, Patagonia, un faro, non so quanti metri era questo faro, pulito, pulito arrivava. Vuol dire che era favorevole. Però con l'antenna sul tetto è tutta un'altra cosa. L'altro giorno sono arrivato a coso a... ma un po' di cavolera. A Vicenza, da quelle parti lì. Ero Santiago 9P10, Radio 5. A Serofonica. Adesso qui. Quando poi si aprono quelle zone di problema, quando è troppo larga la propagazione, e ti prende da Napoli fino alla Sicilia, si pone uno sopra l'altro, non non riesce a cavarne i piedi. Bella invece quando è stretta, per dire che prendi solo quel pezzettino di lì e puoi parlare. La Spagna quasi tutto l'anno la parli, per dire, nella zona mia qua arrivano sempre più o meno. Infatti io voglio mettere un'antenna diretta sulla Spagna sparata di lì, così l'ascolto tutto l'anno. Ma a volte non è possibile tutto l'anno. Difficile. Lo sai, è largo come se lo fanno molti, o la potenza, se è potenza bassi giù. Vabbè, ma è inutile, c'è potenza e poi non ascolti, cioè devi anche ascoltare. Con la direttiva te la regoli bene, la punti nella direzione giusta, la metti in verticale, io la voglio mettere in verticale, non in orizzontale, e tipo tu vedi che avessi ascolto. Voglia. Ma i buoni burundù, no? Cos'hai detto tu? Che la puoi mettere volendo? Certo, è già pronta, devo trovare il tempo di piazzare una direttiva a quattro elementi e quella spara forte. E non so se metto la motorizzata o fissa, adesso devo vedere, dipende dalla gara tutto quanto, perché devi fare una cosa, c'è anche il motore, c'ho tutto pronto a piazzare. Se devi mettere i buoni a guida maniera, ma devi mettere motorizzata, sennò non è inutile che tu giri una parte e poi non senti l'altra. Vabbè, ma c'è sempre l'avanto, vabbè, per non sbagliare. Sì, fa un buon lavoro. Sì, ma grazie a Dio non mi lamento, guarda, l'unico problema è che c'ho il QRM in questo periodo un bel alto, non so per quale motivo, però già mi faccio sentire, c'ho delle zone che poca gente mai arriva forte come arrivo io, tutta la zona di Alghero, solo Claudio arrivava più forte di me, e poi tutte quelle zone Ottini, tutta quella roba lì, invece che arrivavamo eravamo io e Claudio, lui va bene, naturalmente è più forte di me, però di quelli di Sassari, gli unici che ascoltavano erano me, io e Claudio, da qua do matta una mamba di gente. Lo so, purtroppo io se avrei abitato in quelle zone ero stato dominante lo stesso. Sì, è già un grido, tu considerando quello che ci metti sotto, io non esco più di 20 watt, mai mi vedi, mi affermi forse qualcosina di più tira, ma io non tiro più di 20 watt, non... fa tutto l'antenna qua, tanto non c'è mai nulla, se ne metto 20 o ne metto 10 o ne metto 100, il segnale mio è sempre quello. Hai così, no? Non cambia più di niente, Antonio. Hai così, no? Per vedere i cambiamenti ne devi mettere 400 di watt, 500, a quel punto la notte la differenza. Ha già una potenza di 200 watt e una la bestia. Se metti 200 lo paragoni a 10 watt, sì, ma se lo paragoni da 20 a 100 watt non cambia quasi niente. Vabbè, così no. Tanti picchi qua, quando spri e spara, questa roba arriverà una settantina. Va bene. Per me ce n'è per i pucci, ti ho detto, voglio soltanto provare con un'altra antenna a vedere un pochettino, togliermi delle soddisfazioni magari a lunga distanza, perché è inutile che fa vedi, no, che io mi voglio far sentire da lontano e ascoltare soprattutto da lontano. Ma infatti io certe potenze le uso in distanza, non le uso in città. Dratto così faccio gambe, capito? E certo, vediamo se qualcuno vuole entrare qua sul canale 10, attenzione chi vuole entrare, io sono come tutto un mese, vi credo, anzi c'ho un sonno in questi giorni, mamma mia. Il calore, roba. Ma lo so, poi dormo male, io ho detto, tu bene dormi, anzi? No, io dormo 48 di ore e basta. Ma tutta una tirata dormi? A volte no. Io mi sveglio spesso la notte, dormo 2 ore, poi mi sveglio, poi mi dovrò dormire. Certe volte se riesco a fare 5 ore consecutive sono, ma è, cioè, il massimo che riesco a fare. Se no, ieri notte poi ero stanchissimo, mi sono coricato alle 10, aggiunto me, normalmente mi addormento verso mezzanotte, così. Alle 10 proprio ho chiuso gli occhi e mi sono dormito. A mezzanotte, meno 20, chissà di sopra, piazzato, viene a cagare due qualche cosa, un rumore, mi ha svegliato il soprassalto. Ma tu non abiti all'ultimo piano? No, io sono al primo. Pure io dormo così, dormo. La notte mi alzo. Ma poi, a esempio, ancora non abbiamo aperto le finestre, perché l'estate io apro tutte le finestre e mi sento tutti i passaggi del canto della Mondetta da quando partono giù dai militari fino ad arrivare lì sopra. Tutti me li sento. No, ma non danno fastidio. Io ho il sonno leggero, se tu mi soffi vicino, il soffio mi si scende. Pure io già mi sveglio durante la notte. Io ce l'ho troppo leggero il sonno, non è un sonno profondo, non ho mai preso medicina, che mi dite, ma che non ti bili qualche cosa per farti dormire profondamente? Ho detto, no, non è salutare. nessuno ci vuole, però cazzo, non ne voglio prendere medicine. Io ho amici che prendono le medicine per dormire. Tutte gazzate, insomma, se sei così naturale devi dormire quel tanto di ore e basta. Però io ho una cosa di buono, quando ho sonnolenza, per dire sono in macchina, devo andare col camper, devo fare strada, mi battono 10 minuti, io mi fermo, 10 minuti, chiudo gli occhi, proprio mi rilasso e ne posso fare altre 3 ore camminando in macchina. Quello c'ho di buono, però non mi dire la notte mi scendo troppo spesso. E la mattina so con il tracco di quando mi so buccato. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, attenzione 10. Tanto ma col capo sì. Sono con quello lì. E quanto arriva con quello? E chi? Io. È 46 quasi. Addirittura. Mi va a segnalare. Pensavo che non arrivasse neanche a 9.30, figura. Ma fai il gabo, sì. No, pensavo che fosse un po' più basso, non è tu. No, mi arrivi forte qua. No, non c'è un tipo di problema. E se no, amici, mi dai il numero di telefono di vostra fotografia, te la mando, vedi. No, già ci credo, ci vai. Quella cosa ridicola, ti ricordi a Fabio Master? Vabbè. Fabio, guarda, in linea d'aria forse non siamo neanche 200 metri, ma forse non arriviamo a 200 metri. Lui c'ha una specie di antenna, un radiale di Mantova, messo in orizzontale. A me mi arrivava 9,95, a Pompugno 9,60, per dire. Quell'antenna è probabilmente morta verso di me. Infatti dice, ma come cacchio fa se siamo attaccati? Non irradiava proprio dalla parte mia, morta. Infatti dicevo, molte volte non riuscivo a capire quello che diceva. Arrivava 9,95. Poi se la spostava appena saliva il segnale, messa in quella posizione lì non arrivava più di 9,5 a me. Ora me lo ricordo questo Fabio Master. Fabio, che molte volte facevamo discussioni, parlava di apparecchi, radio, di un mezzo tecnico, dai, faceva delle riparazioni, cose. Allora abita in... Dove abita? In zona tua? Dove, più avanti dalla Conad, dove c'è Radio Venere, lo sai? Sì. Tra la Conad e Radio Venere, è proprio vicino. Ma scusa, ma non sarà quell'antenna capofatta che vedo? Ehi, dopo c'è il tabacchino, hai visto il tabacchino? Sì, allora è la sua quella. Ehi, se te lo sto dicendo, irradia solo in una direzione, perché per dire, quelli del monte l'ascoltavano meglio di me, cazzo. Io gli dico, ma è possibile, ci siamo attaccati e non ci sentiamo? Cioè lui a me, vabbè, lui mi ascoltava a bomba, però io a lui lo sentivo basso relativamente, e 9,5, per essere attaccati doveva arrivare a fondo scala. Anche non faccio brasilità a torra, non c'ha niente, mi sono butturata. Lui doveva fare tutto, c'ha l'antenna nuova, tutto quanto, poi è andato a lavorare, poi quest'estate a Olbia, è rientrato di lì, c'aveva già tutto pronto a piazzare. Il problema è che c'è questo polo che ne sta crollando e bisogna essere in due, se no ne varrà tutto quanto sopra le macchine sotto, e uno deve tenere e piano piano abbassarlo. Guarda, è l'unica cosa che è che si è spezzato il palo lì, si è piegato, non fa nulla di antenna. Già lo so, già è capace, fa dei lavori, già non dico che sia del mestiere, però sa lavorare, già si arrangia, dai, di antenne già ne capisce. Allora un momento buono la sta sopra, l'ho vista dietro. Si vede dietro da via Pastore, si vede quella antenna lì che è pigiata. No, anzi, da via Barzini si vede bene. Ehi, è quella di Bracco, non l'hai vista l'antenna? Bracco, dove è Bracco? Giovanni Bracco, radioamatore. Sempre lì in quella zona. Più su, sempre da lui, in linea d'aria da lui sarà 200 metri. C'hai presente tu? Fai via Togliatti, a sinistra via Togliatti, come si chiama quella via? Vedo una che l'altra vedo da via Cottone. Quella piazzola così, via Cottone o via Aragon, come si chiama? Ma così, allora tu stai parlando di via Barzini. Allora, la prima a sinistra salendo in via Togliatti, che via è quella? La prima via? La prima a sinistra, stai salendo dalla Conad verso Monte Bianchino, la prima via a sinistra, come si chiama? Te l'ha giudito. Aspetta, è quella dietro la scuola? No, non su, la scuola è più su, la prima, tu stai dicendo via Mattino, tu c'hai presente la via della farmacia, quella via che passa a destra vai verso la Conad e a sinistra vai verso Luna e Sole, che via è questa? Tu stai dicendo via Pastore, via Barzini è quella? No, più su, ecco, vi ha fatto del su, no, non così in alto. Ah, si dizende. Vabbè. Beh, adesso è stato a dire che Gavia è, perché guarda, la piantina te lo dico subito. Eia. Giorgio, buon preso. Cioè, è quel pezzo lì, che poi c'è una piazzola dietro, c'è un allargamento, ci sono i parcheggi, c'è una piazzola, c'è l'altra, c'è un'antenna. Qua Barzini è quella. L'altra via, via Salismanca dietro, un livello per il radio, che c'è l'antenna, c'è la cosa che prosegue, capito? Aspetta un attimino, sto guardando. La puttindini che c'è in Chivi. Allora, la via si chiama via Pastore, ed è il prolungamento di via Lelio Basso, dove c'è la farmacia. E via Barzini è la traversa. Ma la tenda è in Chivi però. Mica lo so, mi dov'è. Sì, si alza la testa, una manta va che le mancano i radiali. Sì, altro arrivi a forti in occhi però. Certo, si arrivava a forte. Poi quando li ho sistemato, gli avevo dato il Mubicom e poi lui usciva col TS50, quello tira 100 watt con la radio. Sì, hai goduto. Certo, ci conosciamo tanti anni. Ma non lo conosci per... Non me lo ricordo. E ho 80 anni, non è un ragazzino, c'ha la patente da 73. Sì, ma forse non l'ho anche visto questo signore, ma non me lo ricordo. Sicuramente lo conosci, già conosciuto. Adesso c'è qualcuno che chiama, avanti chi chiama su 10. Non ha già ben inteso a Muros, Claudio di Muros. Già entra qualche volta. E anche doppio room, Marco Condolo, prima erano sempre in occhi. Ma che vuole entrare avanti? E cosa Anto? E Cavazzacchi che fine ha fatto? Intanto già entra. Non ho più sentito. Ho sentito a Franco Binario l'altro giorno, c'ha una bellissima modulazione, mi piace un bel con la radio, con quell'usciura, hai visto che belle che usci? Franco Binario, forse ho capito. È vicino a te, Viale Sicci. Sì, te lo che mi arrivi forte. Ma quello arriva forte anche a casa mia, c'ha un bellissimo segnale. Poi la radio è spettacolare, una delle più belle in assoluto qua in frequenza. Cappa, sì, si arriva fortissimo da me. E un profeta che fine ha fatto? Lo stesso non l'ho più sentito da voi. Ieri sera è entrato. Quando? Ieri sera. Ma ieri sera? Ah vabbè, forse è entrato dopo che me sono andato via io. Ehi a robe. Qui mi arriva 9.60, mi arriva. Vabbè, ce l'ho qua alla stazione. Cacchio, se non ti arrivo. Quello se tu ti stacchi l'antenna, se arriva a 9.40 senza antenna. 9.40 no, però lo sento sempre. Mica io a Claudio Sparviero, senza antenna, staccato il PL, arrivava a 9 a casa mia. Lo so già. Lui c'ha una posizione che non ce n'era per nessuno. In certe zone mi faceva 10 a 0 a me, dove io non ascoltavo, lui riusciva a farsi sentire. È una zona molto alta, Ma lui c'ha di buono che lui era aperto, prendeva quel canale di scala di gioco, perché anche io mi faccio sentire, però sono chiuso in certi pezzi. Lui invece prendeva proprio il canale di scala di gioco, mentre un pezzo di Usilo io arrivavo più forte di lui, perché quando facevamo le prove c'era questo qua di Usilo, ma non me ne ammetto, Garera, e lui lo sentiva più basso di me. Lui, per dire, è più in alto e più vicino a Usilo, però questo era nascosto dietro la collinetta dall'altra parte e arrivava più forte a me. Però lui in zone dove io non arrivo o arrivo basso, lui arrivava molto più forte. Adesso vediamo che la torre di controllo, infatti l'ha già detto, ma voglio vedere che diventa torre di controllo. Lo so, Robè, però se è dura torre di controllo, perché lui non c'è più. Guarda, cazzo, quella zona è micidiale, non c'è per nessuno. Se è giusto la palazzina che va qui sopra via con la Malfa, perché lui era altissimo, ma c'è un'altra palazzina ancora più alta. Io sono cresco mio. Guarda, se io abitassi dove abita mio fratello, a Monte Bianchino, c'è presente quella torre dell'acqua? Lo so, quindi è. L'hai vista? Sì, lo so. Mio fratello abita appena più avanti, sarà cosa ti posso dire, in linea d'aria 200 metri, appena più basso. Se si piazza un'antenna di lì, li faccia tutti, di lì domini tutto, cazzo. Vedi tutto Sassari, Alghero, Porto Torre, Isola Rosa, si vede tutto, di lì. Poi si è aperto verso le zone tipo Fuga, su quelle zone lì, arrivi una bomba, vai, non ne ha fottinuta, però se fossi avessi abitato di lì, guai. Quella è una zona, tu vedi quella torre, la vedi, tu sei a Trentino e vedi la torre di Monte Bianchino, anche a Trentino, per dire quanto è in alto. Lì è pompa, cioè lì va forte proprio. Gesù che. Forte orribili. Purtroppo. Comunque non scherzi pure tu, da. Io per essere in zona bassa e non so neanche con la Mantova a Putidini che mi faccio faccio un obbediente io. Ma io non è detto tanto che se tu vai e ti metti la Mantova vai più forte di adesso, secondo me hai trovato il giusto compromesso considerando l'altezza, dove sei e cosa, magari sbogli la Mantova e il segnale più basso, oppure viceversa io mi metto l'antenna tua qua da me e il segnale dipende da cosa c'è intorno, perché la Mantova viene disturbata molto dai palazzi che c'è intorno. Tu con quell'antenna lì probabilmente hai trovato il massimo rendimento, perché c'è gente che non arriva come arrivi tu e c'ha antenne più performanti, diciamo, in zone anche più vicine di te. Non si sa una cosa, ma tu da quella zona stai sparando che è una bomba. Vabbè, come pure qualche cosa, sì, ma anche qualche cosa, considerando poco fa che eri pulito, stavi arrivando quasi 9,20. Lo so già. Per quello ti sto dicendo, anche un profeta, considerando che era un buco, anche lui, cioè non è nato come possono essere io e con pugno, o con pugno anche se si piatta un'antenna non fa danno di lì, ce l'ha troppo bassa. Se lui mette un palo come ce l'ho io di 9 metri, guai dalla posizione, che mica è alto un bembe. Non so se era più alto di Claudio, ma se la giocava con Claudio. Ma no, no, Claudio era meglio. Io sto parlando mettendoci un'antenna alta di, con un palo almeno di 9 metri, 9-10 metri. Naturalmente Claudio sarà 20 metri più alto dell'antenna, però anche lui da quella posizione faceva male, Antonello. Sì, non lo metto in dubbio, ma quando c'era Claudio lì, mamma mia. E soprattutto quando attaccava chissà cosa, una cosa che non si crede. Quando attaccava che si è remita le... Ui, mamma mia. Gaetano Ruggiamma, aspetta, c'è qualcuno sotto, avanti che vuole entrare, deve essere proprio adesso, non è tanto entra. Beh, tu, io ti devo lasciare a che mi viene di sonno, mi guardo appena le televisioni e poi mi si trombo. Ti saluto, grazie della chiacchierata, dai, se coincide ci sentiamo domani. Ciao ciao. Ciao ciao, Robè. Comunque una mezza scimmia me la prendendo di pigliare una cosa del genere. Uia! E poi ho detto, là, lascia stare, là, che voglio le mani della botta. Ok, dai, buonanotte, oh, vabbè, ci sentiamo. Vedi, ciao ciao. Attenzione, c'è qualcuno?